140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Parliamo di musica e cinema nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Best Sound, Milano. Tutti i concerti di Fabrizio De André in una raccolta, la testimonianza delle 8 tournée della carriera di Faber, l'ha presentata Dori Ghezzi. Nei primi anni c'era un ingorgo di cose a cui si pensava, bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare l'altro, fra le tante cose c'era anche il live, perché subito nel 99 uscirono Sony con la raccolta del tutti i dischi di studio. E allora già lì venne l'idea, prima o poi faremo anche quella dei live. Per fortuna abbiamo aspettato tempo, perché se l'avessimo fatto qualche anno fa non sarebbe potuto venire così bene, perché sarebbero mancate molte cose, e invece col tempo, perché sono state ritrovate, insomma, sia materiale visivo, foto di backstage, non so, rassegna stampa ritrovata che non c'era prima, e anche documenti sonori come il primo concerto della Bussola, che è veramente quella la pietra miliare, cioè si parte proprio da lì. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche spogliata bellezza e un po' di tenerezza. Per poi arrivare fino all'ultimo tour, che è poi Mi innamoravo di tutto, Anime salve e Mi innamoravo di tutto. E, compresa una cosa interessante, che è la contestazione di Roma quando nel 78 con la PFM, e lì veramente si usava, non è che insomma contestassero Fabrizio e PFM, contestavano perché avevano il diritto di protestare e usavano i concerti per poterlo fare, ecco, quindi insomma, infatti si vede la reazione anche di comprensione da parte di Fabrizio e della PFM, che cercano di sedare il pubblico, perché fra l'altro poi si mettevano contro fra di loro chi voleva ascoltare il concerto, chi voleva protestare, insomma, e quindi il compito loro era cercare di calmare le acque. Paradossalmente insomma andava così, anche se insultavano Fabrizio in tutti i modi, insomma, gliene dicono di tutti i colori. E credo che non ci siano idee buone e idee cattive, o fatti umani buoni e fatti umani cattivi. Ci sono i fatti umani che vengono accettati dalla maggioranza e vengono definiti buoni, e fatti umani che invece vengono raccolti dalla minoranza e vengono definiti cattivi. Io credo che sinceramente, se loro hanno voglia di fare casino, è giusto che lo facciano, cioè secondo me. Ci sono cazzi. Ma è impossibile. Fabrizio continua il suo concerto, dà ragione a chi sta protestando, e insomma, bisogna capirli, e mentre canta poi Amico Fragile, a un certo punto dice poi qui seduto in mezzo ai vostri vaffanculo, ero meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Questa è stata la reazione di Fabrizio. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione ed amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e a regalare a piene mani oceani ed altre d'altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea. Caratteristica del concerto è quella anche di avere la reazione impressa e registrata del pubblico. Come sono cambiate dal 75 fino al 98? La cosa bella è partire dagli anni 75, quindi l'atmosfera che si avverte, l'atmosfera che c'era veramente anche sociopolitica di quei momenti, insomma, la reazione, attraverso la reazione del pubblico. E quindi sì, si rivive veramente un periodo storico di 25 anni e capendo insomma cosa succedeva in Italia di volta in volta. E poi si capisce l'evoluzione personale di Fabrizio, sia tecnica e direi anche umana. E questa è la cosa bella e quindi il rapporto che col pubblico si fa sempre più stretto e quasi di vera collaborazione. Cioè non è il palcoscenico, cioè si parlano, proprio dialogano fra di loro. Ed è questa una cosa abbastanza singolare. Quasi dal terrore ad affrontare il pubblico, quasi come se fosse temendolo, come se fosse un nemico, a comportarsi invece come se non fosse in un teatro, ma quasi seduti ecco, in un salotto a chiacchierare e a dire adesso prendo la chitarra e canto una canzone. Ecco, ecco perché si è arrivati poi nel tempo ancora adesso a dire per me Fabrizio è stato come un padre, come un fratello, eccetera, proprio perché si è creato questo tipo di rapporto e anche perché lui non si è mai negato, anche dopo la fine del concerto, e se erano 500 le persone che lo volevano incontrare, salutare semplicemente o parlare con lui, lo potevano liberamente fare. Non era la rockstar che scappava, capisci, con i gorilla, ecco. Ombre de muri, muri de maine, donde ne vegni, dove le cane. Nasci tutto vale, ma siamo strani, e a metà un punto con te lo ago, e a montana se io che resto Dio, o diavolo in sé, o se che fetto mio. Ne sciortimo da una pesci gaio se l'audria, a fontana di convita cade a prira. Hey, rimane traccia appunto anche delle collaborazioni, quella con il leggendario Pepi Morgia, ma anche con i musicisti che hanno collaborato con lui, quindi anche questo è un aspetto importante. Beh sì, perché Fabrizio poi ha anche con loro creato un rapporto veramente importante di amicizia, a dir poco. Cioè lui conosceva tutti uno per uno, cioè, per il proprio nome eccetera, e creava il rapporto con ognuno di loro. E questa è la cosa bella, con anche il vaffanculo che girava, ma se lo lasciava anche dire, cioè non è che, cioè, quando ci voleva, ma in modo, cioè, molto democratico, ecco. Mi vado a finire una sigaretta, l'unica dalla sera, non so se avete notato. Non vi lascio da soli, vi lascio con... un grandissimo talento, io così la penso da sempre, che casualmente porta il mio cognome, Cristiano De André. Per quanto tempo ti penserò in quelle notti a Genova, giù lungo il porto, dentro quei bar, sogni cambiati in spiccioli. E il tour che Fabrizio De André ha amato di più? Ma io credo l'ultimo. No, credo l'ultimo veramente con Anime Salve, con ragazzi. Perché non l'ho mai visto così sereno, così sorridente, così pacato, così a suo agio, così paziente. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare di cinema. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Il cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Amore, maternità, morte, la guerra nell'ex Jugoslavia. È venuto al mondo dal libro di Margaret Mazzantini, film diretto dal marito Sergio Castellitto. Per noi, forse gli altri restano qualche volta anche un po' colpiti da questo, per noi è abbastanza naturale, nel senso che noi ci sono due artisti che si sono conosciuti 25 anni fa, erano due ragazzi. Margaret è una ragazzina perché è molto, molto diversa, insomma, diversi anni più giovane di me. Si sono innamorati, quella ragazzina è diventata una donna, ha cominciato a scrivere dei grandi libri, ha trovato la sua strada, la sua vocazione, io ho fatto la mia vita di attore, abbiamo fatto dei figli, siamo stati insieme, ci siamo accorti che dopo tanti anni ancora ci diverte, ci incuriosisce quello che dice l'altro, ed è arrivare a lavorare insieme per noi è stato un processo assolutamente naturale, capito? Non c'è mai stata un disegno in questo. E decidere di girare un film da Venuto al mondo, che è un romanzo anche piuttosto complesso, perché? Com'è nata questa decisione? Beh, sfido chiunque. Dai nelle mani di un regista Venuto al mondo e soltanto un imbecille non prova a farlo un film del genere, perché che cosa cerca un regista? Una storia da raccontare, una storia straordinaria da raccontare. Venuto al mondo, fra le mille cose, è innanzitutto una grande storia d'amore infilata in una grande storia di guerra, e con un tema fondamentale, che è quello della maternità e della paternità, che è uno dei temi centrali della vita dell'uomo. Lo è anche per chi non è genitore, perché sei padre o madre non soltanto dei tuoi figli, ma sei padre o madre di tutte le persone che cercano magari da te un rapporto di quel tipo, e magari tu non lo vuoi avere, lo rifiuti in qualche modo, perché la maternità e la paternità evoca il grande disegno della nascita, che è appunto il disegno del venire al mondo. E venire al mondo è già di per sé un elemento, è già, come dire, un elemento fatale, no? Si viene al mondo, tutti nascono, Gesù Cristo viene al mondo. E quali sono le tue intenzioni, Aska? Amo solo la musica. Uno dei Nirvana è croato. Se ce l'ha fatta lui, ce la faccio anch'io. Voglio andare a Londra. Mi servono tanti soldi. Ho parlato con Goico. Lui mi ha detto che cercate una cicogna. Voglio essere pagata in marchi. Ma lo fai solo per i soldi? Che ti aspetti che ti dica? Che lo faccio per amore? Sei musulmana? Mi capita di leggere il Corano. E che cosa dice il Corano? La tua pancia la puoi prestare a un'altra donna. Il Corano dice che bisogna aiutare le persone. E io sono felice di poter aiutare una donna mutilata. Ognuno deve restituire qualcosa. In questo film c'è un ragazzo che è Pietro Castellitto. Com'è stato come attore? Perché dirigere il proprio figlio, insomma... Ma insomma, è stato, per me è stato emozionante, naturalmente. Per lui è stata un po' una rottura, nel senso che mi rendo conto che io sono stato più rompiballe con lui di quanto non lo sia stato con, magari, con gli altri attori, perché c'hai quella pretesa morale che da tuo figlio che tuo figlio se la deve guadagnare, no? Un po' di più la pagnotta, ecco, come si dice a Roma. Però se l'è cavata bene, io sono molto fiero del lavoro che lui ha fatto nel film. Quella notte a casa di Goico? Sì. Sono rimasta incinta. Un aborto spontaneo. Del cuore non ho mai sentito il battito. Era un ovulo cieco. Come un occhio cieco. Mia nonna era cieca. Era una maestra. Un giorno, mentre andava in bicicletta, è caduta nel fiume. Mio nonno l'ha ripescata. Era più giovane di lei. E sono rimasti insieme tutta la vita. Voi non fate parte di un certo entourage del cinema italiano? Vi staccate un po' da alcuni schemi, forse anche da alcune frequentazioni, chissà. Infatti questo film non ha i classici attori italiani, ha un cast completamente diverso, non ha esordito in Italia e andrà, è stato già venduto anche negli Stati Uniti. Questo è importante? Beh, anche questo non c'è nessun disegno neanche in questo. Non abbiamo... noi non facciamo parte di nessun entourage, perché il nostro entourage è il nostro mondo. Io dico sempre che per me il gesto più mondano è stare seduto sul divano di casa mia a parlare con i miei figli e con mia moglie. L'uscita americana sarà in primavera, adesso però si esce in Italia, e questa è comunque in questi periodi difficili una scommessa. È sempre una scommessa, il cinema italiano è sempre una scommessa, però io penso che il pubblico ha una grande, grande voglia di emozionarsi, di ridere tanto ma anche di piangersi tutte le sue lacrime, se quelle lacrime servono a capire qualcosa della sua vita. E io ho voluto fare un film che andasse verso il pubblico nel senso dell'emozione e anche delle emozioni forti, dei temi forti, delle relazioni umane, della storia da raccontare. Signora, il capitano chiede se desidera un passaggio verso Roma. Ha preso un panino, una cosa da mangiare, una cosa da bere, beh. Grazie. Lo dia pure a me, non si preoccupi. Lo tengo io, non si preoccupi. Ho avuto i nipoti. Che bello. Ha partorito a Sarajevo. Ha avuto un bel coraggio. Scusi, ma il padre del bambino? Ha perso il passaporto. Capire qualcosa della nostra vita, ma anche di una storia, nel senso storia con l'S maiuscola, che ci tendiamo a dimenticare. Che tendiamo a dimenticare, quella che è stata la guerra in ex Jugoslavia e così via. Però poi i buoni film sono un film in cui ognuno mette una mano e tira fuori il suo, cerca qualcosa e trova qualcosa che lo riguardi. Non è detto che la cosa che trovo io è la stessa che trova un altro, insomma. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale di Twitter, @140caratteriR24, e anche il mio account, @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.